fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ben ritornati, ben ritrovati all'ascolto dei 5 minuti di... qua sulle interconnessioni web di Ristoradio Convento. Io sono Mr. Dave, saluto tutti quanti sono all'ascolto in questo momento, sia in diretta, che è un bellissimo sabato sera del 26 gennaio, molto gelido, sono le 2:38 e in questo momento sono venute a trovarci due simpaticissime amiche da Gavardo. No, ho sbagliato. Da Nuvolera, quindi qua vicino, diciamo. Che si chiamano esattamente? Piera, vieni vicino al microfono. Piera. Ecco, Piera, la Piera e Barbara. E Barbara. Due ragazze. Grazie per le ragazze. Io sono ragazza. Due ragazze dentro. No, anche fuori. Anche fuori, puoi certo dirlo. Che si vedono, si vede anche che sono ragazze, perché hanno tutte le cose al loro posto. Vestite, pettinate, col piercing pure. Aia, vedo delle cose incredibili. Allora, Piera e Barbara, perché siete venute qua? Per festeggiare il mio compleanno. Il compleanno di Barbara, tanti auguri! Che compie quasi 19 anni. Quasi 19. Sì, fra poco prendo la patente. Le farei l'anno prossimo. Sì. Barbara, cosa fai nella vita? Sono parrucchiera. Ah, dai, prima c'era un tuo collega. Davvero? Hairstylist di Pozzolengo. Vedo che avete socializzato questa sera. E invece la Piera cosa fa? Io lavoro vicino al microfono. Io lavoro in un negozio di arredamento, di design arredato. Quindi sei una stylist anche tu, sì, a livello. Sì, sono molto stylist. Sei molto stylist. Benissimo. E le altre donne invece? Perché non eravate voi due, eravate. Diciamo che siamo tutti delle grandi imprenditrici. Non diciamo in che cosa, ma siamo delle grandi imprenditrici. Ho capito. Però devi parlarmi vicino al microfono. Forse lo devi girare, guarda. Giralo. Ok. Ecco, così. Girare la ruota. L'ho girata. Ecco, dovete sapere che prima, mentre eravamo fuori onda, mentre aspettavamo lo stacco, Piera si è raccomandata non farmi le domande come al milionario, perché non è che facciamo i quiz. Quindi, Barbara, come ti senti dopo i festeggiamenti? A parte il mal di testa? No, nessun mal di testa, molto bene. Mi sento proprio nei miei 19 anni. E questo lo confermo anche per come vi scatenavate in pista. Vero, sulle abbiamo onde fatto e la musica. Un baffo a tutte le 18enni nel questo locale. Questo è vero. Con i 19 anni. Con i miei 19 anni e qua. Merito anche del nostro DJ, molto, bravissimo. Molto bravo. Alex, DJ Alex Angioletti. Molto che in questo bravo. Momento è ancora in console. E niente, che dire, ragazze. È stato un piacere avervi qua. Volete salutare qualcuno a Nuvolera? Ma diciamo che salutiamo tutti, noi siamo molto conosciuti nel nostro paese, anche perché siamo in due o tre gatti, di cui noi siamo due gatte e la terza è qua di fuori, quindi salutiamo tutti. Quindi salutiamo i gatti e i cani e i cani e i topi, gli elefanti, gli unicorni. Non manca più nessuno, solo non si vedono i due unicorni. Ciao ragazze, tanti auguri ancora. Ciao, Barbara, grazie.